faccia dell'estate mi racconta delle mille cose che non ho. Oggi finirà la prigionia, cadrà il reticolato, i polimini, le Anna saranno belli, i tuoi capelli sul vestito che io ti darò. Fra noi in questa nuova età vestirò con te i panni vecchi e poi scalzo camminerò. Solo il vecchio amico insieme a noi me li ricamerà nelle tasche sole. Moi